Nell'ultimo bollettino economico della Banca Centrale Europea, pur senza diciamo fare nomi, quindi senza esplicitamente indicare l'Italia come diciamo oggetto del discorso, i ricercatori della BCE sostengono proprio che l'invecchiamento demografico a cui paesi come l'Italia sono sottoposti comporterà delle pressioni al rialzo sulla spesa pubblica per le pensioni e quindi di conseguenza, viene detto nel rapporto, un onere crescente del debito. Ad esempio poi sono contenute anche nel rapporto anche delle proiezioni sul rapporto tra la popolazione diciamo anziana e la popolazione attiva. Si prevede che ad esempio nel 2070 questo rapporto sarà pari oppure superiore al 60%, e quindi l'allarmismo lanciato dai ricercatori della BCE è proprio il fatto che se si dovesse procedere a un rallentamento diciamo dello sforzo sulle riforme delle pensioni, la sostenibilità della spesa pubblica sarebbe messa a repentaglio. Ed è interessante notare che diciamo nel rapporto degli economisti BCE ci sono anche delle indicazioni su quelle che dovrebbero essere poi i provvedimenti specifici da adottare in queste riforme. Cioè viene ad esempio suggerita la bontà dell'aumento dell'età pensionabile e viene invece in qualche modo criticata l'idea di ridurre gli assegni pensionistici. Ora, in questo, sempre facendo un lavoro un po' di interpretazione, di esegesi, quale può essere il discorso? Che da un lato viene criticata l'idea che possa essere abolita la legge Fornero, ad esempio, quindi l'impianto che porta a innalzare l'età pensionabile, che è una pratica insomma non soltanto italiana ma anche greca e più in generale si sta diffondendo in tutta Europa, ma anche una critica a quelle politiche come ad esempio APE e APE Social, che hanno praticamente diciamo barattato una flessibilità in uscita maggiore dal mercato del lavoro con una riduzione sostanziale dell'assegno pensionistico. E qual è la logica diciamo che richiamano gli economisti BCE? La logica è questa, che aumentare l'età pensionabile in qualche modo mantiene viva una forza lavoro anche diciamo nell'età ultra sessantenne, quindi aumenta la forza lavoro e quindi nel medio-lungo periodo questo si sostiene che questo aumenti la produttività generale del lavoro e quindi questo dovrebbe portare a quell'aumento del PIL che consentirebbe di mantenere il rapporto tra la spesa pubblica per pensioni e il PIL costante. Ora, qual è il problema in questo ragionamento? Innanzitutto il fatto che questo discorso va bene finché l'economia cresce. Sono molti gli osservatori internazionali, tra cui l'OCSE, che hanno fatto notare come il problema diciamo di aumentare l'età pensionabile è che se l'economia non cresce ma ristagna, è come se i posti di lavoro disponibili che non aumentano nel loro complesso fossero sottratti a quelli che sono i nuovi entranti, cioè i giovani. E non a caso questo è un po' quello che è successo all'Italia. Se andiamo a guardare i dati tra il 2012 e il 2016, vediamo che l'occupazione 65 più paradossalmente è aumentata di 150.000 unità tra il 2012 e il 2016 secondo Istat, mentre l'occupazione tra i 15 e i 24 anni è diminuita di 23.000 unità, sempre nello stesso periodo. Quindi questo significa in poche parole che una larga fascia di persone sono rimaste al lavoro proprio perché come effetto diciamo della legge Fornero, e moltissimi altri non sono riusciti ad entrare nel mondo del lavoro, senza contare quelli che appunto sono rimasti disoccupati prima di poter accedere alla pensione senza avere poi uno scivolo nel caso degli esodati. Gli altri due aspetti sono il fatto che da un lato la produttività stessa dell'economia, no, che nel rapporto della BCE è un dato che dipende esclusivamente dalla disponibilità diciamo di forza lavoro, in realtà, ed è un consenso che si sta ormai affermando nella scienza economica nel suo complesso, dipende anche dalle condizioni della domanda, lo ha ricordato anche Mario Draghi nell'ultima conferenza stampa della BCE della settimana scorsa, cioè se all'interno dell'economia non viene attivata la domanda di beni e servizi o dagli investimenti privati o comunque dagli investimenti pubblici, la disponibilità in sé di forza lavoro non genera quella produttività che consente al PIL di crescere. Ma soprattutto il dato che viene poco sottolineato sia da questo documento della BCE ma anche dal documento del Fondo Monetario Internazionale, che sullo stesso tema era intervenuto la settimana scorsa, è che la ratio diciamo dietro la legge Fornero e le riforme delle pensioni è più o meno questa, cioè che secondo dati Istat l'incidenza della spesa pensionistica sul PIL era nel 2014 ad esempio pari al 18,5%, che è un dato che è superiore alla stessa incidenza della spesa pensionistica secondo la media europea, che è al 14,7% sempre nel 2014. Il problema che ha fatto notare, ad esempio, il Centro Studi Itinerari Previdenziali, che è un centro studi patrocinato dal Ministero del Lavoro, è che questo numero viene calcolato per l'Italia aggregando sia la spesa pensionistica che la spesa per interventi assistenziali, prepensionamenti e soprattutto tasse, perché è una spesa che viene calcolata al lordo, diciamo, dell'IRPEF. Se noi andassimo a depurare questo aggregato dalle componenti che ho appena detto, in realtà il dato dell'incidenza della spesa pensionistica in senso stretto sul PIL sarebbe per l'Italia pari al 13,54%, cioè di quasi un punto inferiore alla media europea. Per cui, anche, diciamo, ammettendo che la logica di fondo economica possa funzionare, in realtà per l'Italia non esiste questa emergenza pensionistica che in parte la BCE e in parte il Fondo Monetario Internazionale hanno in qualche modo paventato. Certo, ecco, però appunto sempre nel documento della BCE sembra quasi che l'Europa, sintetizziamolo così, non si accontenti della legge Fornero ma chieda uno sforzo ulteriore all'Italia, è così? Esattamente, proprio perché per quello che dicevo prima, l'idea è che non basti neanche più, diciamo, il fatto di aver aumentato l'età pensionabile a 67 anni, ma l'idea è che l'incidenza crescente di una popolazione anziana, comunque sul totale della popolazione, porti il PIL comunque a diminuire se in qualche modo non viene aumentata l'età pensionabile dei lavoratori, cioè in poche parole la forza lavoro potenziale nel futuro si andrà a ridurre se consentiamo, diciamo, alle persone di andare in pensione a 60 anni. Questo porta naturalmente all'idea che bisogna fare ancora di più per garantire una sostenibilità della spesa pensionistica. Il grande assente in questo discorso è il fatto che in realtà, diciamo, la sostenibilità del debito pubblico italiano, ma anche della spesa pubblica in generale, dipende molto da quello che fa, diciamo, la stessa BCE, nel senso che finché esiste la garanzia del debito pubblico, che adesso esiste in maniera, diciamo, temporanea, implicita e comunque soggetta a molti vincoli dei paesi, in realtà non esiste il problema del potenziale default o comunque della sostenibilità del debito pubblico. E in generale, insomma, il problema dei paesi europei è che questa sostenibilità è stata in qualche modo distrutta sin dall'inizio con la creazione dell'Eurozona così com'è, per cui in qualche modo il grande assente dal dibattito è il fatto che in assenza di un bilancio federale europeo che possa fungere da capacità fiscale centrale esattamente come avviene negli Stati Uniti, ecco, in realtà si costringe gli stati a comportarsi di nuovo come se fossero delle famiglie o delle imprese private. E questo lo si fa anche suggerendo ricette che, come abbiamo visto dai dati, sono state fallimentari e distruttive e che se fossero ulteriormente, insomma, perseguite in assenza di una crescita sostenuta comunque andrebbero a danno sicuramente dei giovani.